Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera. Quanti ci ascoltano? Questa sera parliamo proprio di economia, con un libro che non è tanto un manuale di economia quanto qualcosa di diverso dal solito. Buonasera, professor Da Crema. Buonasera a tutti. Buonasera. Pierangelo Da Crema, docente di economia degli intermediari finanziari dell'Università delle Calabrie, giusto? Giusto. E ha scritto questo libro che ha come titolo C'era una volta una scienza triste, edito da Jacabook. C'era una volta una scienza triste. Ecco, perché questo titolo, Da Crema? Perché Thomas Carlyle, quando ha dato dell'economia questa definizione, pensava a un quadro generale abbastanza sconfortante. Aveva in mente con ogni probabilità l'economia descritta da Malthus, un'economia che insomma era piena di numeri che di fatto raccontavano qualcosa di triste, insomma, di poco edificante. In realtà l'economia è una scienza dello spirito, è certo che se la si riempie di numeri e la si interpreta solo col linguaggio dei numeri diventa una scienza triste, ma non è così. In economia il pensiero è azione, l'economia è pensiero più volontà più azione, è qualcosa che ha a che vedere con la mente e con il corpo e con la capacità della mente e dei corpi di fare qualcosa di buono. Beh, questo è un libro allora un po' provocatorio, un po' diverso, dicevo all'inizio, un po' diverso dal solito, perché per trovare qualche formula matematica bisogna sfogliare le prime 400 pagine, poi si arriva a qualche formula, a qualche grafico, ma molto molto limitati. Invece all'inizio appunto c'è un'introduzione che parla dell'economia come qualcosa di diverso da come lo si immagina, come la si spiega spesso, come si ha in mente l'economia come una cosa strettamente legata alla matematica, strettamente legata ai modelli, agli automatismi. Ecco, invece è qualcosa che è molto più, in fondo anche irrazionale, Da Crema. Certo, l'economia è il mondo delle emozioni, insomma l'uomo economico è un centro di emozioni, se l'uomo filosofico è un centro di pensiero, quello economico è un essere molto emotivo, facciamo economia per soddisfare i nostri bisogni, ma non dimentichiamoci che facciamo economia per appagare soprattutto i nostri desideri, quindi anche in questo senso l'economia è proprio una Geistwissenschaft, una scienza dello spirito, ed è un peccato che si sia appiattita insomma la scienza economica da molti decenni a questa parte su una sorta di scienza del denaro. Ecco, la scienza del denaro, proprio il denaro è un po' il filo conduttore del libro per arrivare alla fine a un tema che le è caro, a cui è dedicato un altro libro in passato, quella di una società che riesca a fare senza il denaro. È una cosa che è un'utopia o è un percorso che ha forse un minimo di realismo, Da Crema? Io credo che sia un percorso ineludibile. Io parlo di un'economia postmonetaria come di un'economia che venga dopo la lunga e utile esperienza della moneta. Arriverà il giorno in cui si capirà che la moneta è uno strumento molto costoso, oltre che insomma carico di tutte le sue imperfezioni che viviamo ogni giorno del resto, e credo che sia un percorso non so quanto lungo, ma ancor più che necessario, come dicevo prima, appunto ineludibile. Ecco, però in questa frase, per uscire un attimo anche dai temi un po' generali del libro, la moneta ha ancora la sua centralità, le politiche economiche, lei tra l'altro dice che le politiche economiche non esistono all'interno del libro, però le politiche economiche puntano molto sulla moneta, sulla Banca Centrale Europea, e quindi forse si sta un po' esagerando nel pensare che la moneta sia la soluzione, invece la moneta è ancora un problema. Certo, è vero, è come dice lei, di fatto la moneta è sempre il problema, l'assenza o la carenza di risorse finanziarie è sempre il solito problema, e al tempo stesso è la soluzione, le risorse finanziarie sono il problema. Abbiamo un mondo che è pieno di risorse umane e tutta la politica, non solo la politica economica, si riduce a un lungo e spesso sterile dibattito sul tema della distribuzione della moneta. C'è qualcosa di paradossale in tutto questo. Ecco, è qualcosa di paradossale, però bisogna fare i conti poi con l'economia. Una frase direi che spesso si ripete, che se noi non ci occupiamo di economia, l'economia si occupa di noi. Ecco, questo modo come il suo di occuparsi di economia, di trattare l'economia come una, non tanto come una scienza, perché già parlare di scienza vuol dire avere delle regole da seguire, quanto come una disciplina, quanto come un modo di guardare la realtà, ecco, dicevo, un modo come questo è un modo che può riconciliare anche con aspetti che sembrano molto spesso ostili, un'economia che è ostile perché crea le disuguaglianze invece di cercare di attenuarle. In questa la prospettiva anche del racconto che si sviluppa in questo libro da Crema? Sì, e c'è una sorta dentro di amara, questa volta insomma triste, riflessione su come gli uomini siano stati in grado di costruire dei meccanismi perfetti, insomma siamo andati sulla Luna, gli aerei, i motori degli aerei funzionano perfettamente da Milano a New York o da Los Angeles a Singapore, e non riusciamo a dare anche solo una parvenza di perfezione al motore dell'economia. Quindi questo deve farci riflettere sul fatto che siamo o saremmo in grado di fare qualcosa di più e di meglio in economia, ma ancora non ci siamo riusciti, c'è qualcosa di sbagliato nel motore dei nostri sistemi economici. Forse perché ci fidiamo un po' troppo delle ideologie. Lei l'anno scorso, un paio d'anni fa, ha scritto un romanzo con un dialogo tra Marx e Keynes in cui, sì, a cui appunto si tracciavano un po' una visione diversa della realtà, però anche questo diceva che in fondo la soluzione non è in concetti astratti, ma è proprio nel calarsi nella realtà, nel vedere con molta concretezza la realtà senza voler applicare degli schemi particolari. È un po' questa anche la prospettiva. Non c'è dubbio, ecco, stupisce il modo in cui la disciplina economica attuale cerca ossessivamente di trovare in formule, in modelli matematici che poi di fatto si appiccicano sempre e immancabilmente all'aritmetica della moneta, voglio dire, stupisce il modo in cui si cerca di trovare in questi modelli sempre la soluzione, una soluzione che non è ancora arrivata e che si affida a queste formule, secondo me non arriverà mai. Ecco, anche perché sono terribilmente noiose certi libri di economia attuali, sono libri infarciti appunto di formule matematiche e di grafici e di equazioni. Forse se, rileggendo un po' anche i classici di Keynes, si può trovare un'ironia che si è un po' persa quando Keynes dice, per esempio, in conclusione del suo trattato sugli interessi della moneta, dice che in fondo gli economisti sono quasi sempre schiavi di altri economisti defunti. Questo era un modo di guardare con ironia all'incapacità del sistema appunto di rinnovarsi, di capire che il mondo è cambiato. Siamo anche sotto questo profilo in un mondo nuovo rispetto al passato. È vero, e lei ha citato Keynes è stato l'ultimo dei grandi sognatori e probabilmente l'ultimo grande economista, l'ultimo non a caso dei filosofi dell'economia. L'economia, la scienza economica attualmente ha tradito la sua radice. Adam Smith, il più grande economista della storia, il fondatore della scienza economica, era un professore di filosofia morale, e adesso secondo me appunto la scienza economica tenta a prendere il volo anche in virtù del fatto che si è totalmente dimenticata delle sue origini. Ecco, in questo senso citare Smith, la sua teoria dei sentimenti morali, in cui poneva al primo posto quello che chiamava l'empatia, cioè il fatto che le scelte delle persone derivavano dalla simpatia verso gli altri, e in fondo le motivazioni della, non era solo un interesse personale, ma all'interno c'è un interesse verso la felicità altrui, verso anche una giustizia maggiore, quello che forse si è dimenticato. Si cita sempre Adam Smith per il fatto della mano invisibile, per il fatto degli interessi dei singoli che formano gli interessi collettivi, però la teoria dei sentimenti morali è un libro che nessuno cita più. Pierangelo da Crema. Infatti, no, è così. Spesso noi sopravvalutiamo la necessità, diciamo, di considerarci egoisti. In realtà siamo uomini che vivono all'interno dell'umanità e il singolo non può fare a meno di di pensare, insomma, più o meno consapevolmente, di essere parte di un tutto. E questo tutto è diverso dal singolo. L'umanità può aspirare all'eternità e non a caso ha superato miliardi di morti, il singolo no, e di questo c'è una coscienza intima, profonda, non so quanto consapevole. Sta di fatto che il meccanismo solidaristico vince su quello egoistico, vince necessariamente. Dobbiamo trovare gli strumenti e i metodi per lasciare parlare questo per lasciare parlare questa solidarietà naturale, non so come definirla. E indubbiamente, forse tra gli strumenti, più che la moneta, bisogna riporre quello strumento che si chiama fiducia, la fiducia delle persone, la convinzione che il rapporto può essere un rapporto costruttivo, positivo, appunto un rapporto creativo tra le persone e non tanto un rapporto in cui l'interesse dell'uno sopravanzi l'interesse dell'altro. La fiducia può essere il motore di una nuova economia un po' meno triste del passato? No, non c'è dubbio, e la parola fiducia è una parola chiave, anzi è la parola chiave, e dovrebbe, potrebbe essere una fiducia di più ampio respiro di quella attuale. Oggi viviamo la fiducia cartolarizzata nella moneta, impacchettata nella moneta. Se si riuscisse ad ampliare questo concetto di fiducia e a farlo aderire all'anima vera degli uomini, al di là dei loro egoismi e dei loro istinti anche umanitari, secondo me potremmo fare un passo in avanti. Ricostruire la fiducia, questo è certamente un obiettivo un po' ambizioso, ma necessario, direi, in questa fase in cui si parla molto di crisi, purtroppo, perché c'è, perché la crisi colpisce anche in fondo la nostra società e quindi ciascuno di noi. Ma speriamo di poter parlare di un'economia come non più come una scienza triste, che sia vero il titolo di Pierangelo da Crema, del libro di Pierangelo da Crema, C'era una volta una scienza triste, un libro di cui abbiamo parlato questa sera. Grazie a Pierangelo da Crema di essere stato con noi. Ricordo il libro C'era una volta una scienza triste, edito da Jacabook, sono 525 pagine, ma si leggono molto facilmente, non tutto in una volta ovviamente, ma si leggono con interesse, costa 22 euro. Grazie anche a Paolo Corleone in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che Economia in Pagina va in onda il sabato sera e può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie e ancora buonasera.